Tolgo il freno a mano al motore, scappiamo via. L'ho fatto pieno, ma la sensazione è mia è di non aver preso tutto, ma tornare indietro ora non si può. Siamo partiti, l'emozione è finta. Sarà lungo viaggio, non preoccuparti, guido io. Destinazione, mi dovrai aiutare, tieni questo a portata di mano, quando sarà il momento giusto te lo chiederò. Destinazione incognita, destinazione incognita, destinazione incognita, destinazione incognita, destinazione incognita, destinazione incognita. Destinazione incognita, destinazione incognita. Lo sai, ci siamo persi perché la strada a destra non c'è. La mappa è capovolta, è capovolta perché la strada a destra non c'è. Lo sai, ci siamo persi, ci siamo persi perché la strada a destra non c'è. Nostra uscita rimarrà ricordo, uno scatto, una fotografia, un segno netto impresso nella mente mia. Rimane un posto vuoto al mio fianco, ma con questa foto credo lo riempirò. Destinazione incognita, destinazione incognita, destinazione incognita, destinazione incognita, destinazione incognita, destinazione incognita, destinazione incognita, destinazione incognita.